Papua Nuova Guinea è il nome di uno stato dell'Oceania. Da quelle parti, un po' per natura e un po' di più per cultura, devono essere fiorite le analogie, perché ci si trova parecchie vecchie conoscenze rimesse a nuovo. Ci si trova la Nuova Britannia, la Nuova Irlanda, poco più in là il Nuovo Galles o la Nuova Georgia, secondo le esigenze, diciamo, sentimentali dei nuovi padroni. Nel 1976, un anno dopo aver ottenuto una specie di indipendenza dall'Inghilterra, Papua Nuova Guinea poteva vantare un allevamento di animali che annoverava 15.000 caprini, 155.000 bovini e soprattutto 1.173.000 capi maiali, una risorsa non indifferente per gente che, se no, a tavola avrebbe dovuto scegliere fra noci di cocco, patate dolci e banane. Sarebbe da scrivere almeno già ad Eraclito, che visse credo 500 anni prima di Cristo, l'opinione secondo la quale il maiale gode nel fango e nel letame, fango e letame che, da fisici che erano e che sono, si trasformano ben presto in una pura categoria dello spirito. Certo è che Gesù non fece un granché per una categoria già per l'appunto malmessa. Non solo perché evangelicamente non bisognava mai dare le perle ai porci, nel senso che a chi non è in grado di accoglierle lo sa Dio, perché non si deve rivelare le verità spirituali, ma anche per via di quel che accadde quel giorno a Gadara. Lo ricordano 3 evangelisti su 4, l'unico che se lo dimentica è Giovanni, forse perché per lui quelle sono quisquiglie e pinzellacchere. Allora, a Gesù si fanno incontro 2 indemoniati, o uno solo, ma posseduto da una legione di spiriti immondi. Sulla questione gli evangelisti non sono perfettamente d'accordo. Gli si fanno incontro 2 indemoniati e lui non fa una piega. Meglio che in un film di Spielberg, li disintegra, li volatilizza e te li infila molecola dopo molecola nel corpo di 2000 poveri maiali che si aggiravano nei dintorni, maiali che, una volta indemoniati a dovere, si buttano tutti e 2000 a capofitto da un precipizio, affogando opportunamente nel mare sottostante. A parte i maiali, il cui destino prima e dopo il cristianesimo è segnato, chissà com'erano contenti gli abitanti di Gadara di aver riguadagnato alla comunità gli indemoniati e di aver perso chissà quanti etti di prosciutto, che peraltro dovrebbero essere tenuti presenti al momento del saldo, quando di solito ci si ricorda soltanto dei pani e dei pesci moltiplicati. Per i cattolici, Papua Nuova Guinea è sempre stata una brutta gatta da pelare. Il primo tentativo di evangelizzarla sistematicamente lo si deve ai maristi, ovvero ai missionari di quella società di Maria che Jean-Claude Collin riuscì a far approvare da Papa Gregorio XVI il 29 aprile del 1836. Il fatto che oggi si ricordi Padre Pietro Chanel come il primo martire del continente oceanico dovrebbe testimoniare a sufficienza del modo con cui costoro sono stati accolti dalle popolazioni locali. Ci riprovarono nel 1852 i missionari del Seminario per le Missioni Estere di Milano e, grazie ad un carico di scuri, seghe, pentole e altri impericolosi manufatti in ferro che sagacemente regalavano agli indigeni, non sono stati massacrati subito. Fecero l'errore, tuttavia, di deprecare pubblicamente i costumi locali, in particolar modo quelli connessi alle pratiche sessuali, e di distribuire medicinali. Non l'avessero mai fatto, i medicinali non sempre funzionavano, mentre le pratiche sessuali funzionavano benissimo, e ciò portò la spedizione alla catastrofe. Salvarono la pelle in 3, mentre tale fratel Tacchini, a quanto narrano le cronache, uscì di mente. O si convertì al papuanesimo, il che per il narratore di quei tempi doveva essere più o meno lo stesso. La vicenda ridusse i cattolici a più miti consigli e da quelle parti non si sono fatti vedere per un bel po'. Sono tornati in forza soltanto nel 1980 e oggi possono contare su un esercito di 1.425.000 convertiti, quasi uno su tre, distribuiti in 18 diocesi e 380 parrocchie, sotto il comando di 23 vescovi, 489 preti, 879 suore, 274 seminaristi e 2.257 catechisti. Ci rammentano i giornali che sono trascorsi 40 anni dal Concilio Vaticano II. Zelanti servi di ogni regime magnificano l'evento e il suo anniversario. A fronte di flebili scuse per aver taciuto qua e dato una mano là, la Chiesa si è distinta per la protervia con cui, alla faccia della storia e delle sue vittime, ha santificato nemici del popolo e amici dei potenti, di cui l'ultimo in ordine di tempo è quel José María Escrivá de Balaguer che, fondando l'Opus Dei nel 1928, ha ottenuto nei più attrezzati laboratori dell'autoritarismo la simbiosi di santità e finanza. Il preteso dibattito interno alla Chiesa fra le sue due anime, o fra un approccio fondamentalista ai problemi del mondo ed un'alternativa relativistica, è del tutto fittizio. Per cavarcela alla svelta, con un caso storico potremmo dire che in questa chiesa, come al solito, c'è posto sia per padre Pio che per padre Agostino Gemelli. Il secondo pensava che il primo fosse un malato o un imbroglione, il primo non poteva che subirne l'autorità, ma alla fin fine entrambi erano fascisti e sugli altari televisivi di oggi sono stati celebrati assieme. Nel gioco dei due passi avanti e tre indietro, più spesso i tre indietro che i due avanti comunque, non può stupire se ogni tanto qualche voce interna alla Chiesa alza i toni in segno di accorata protesta nei confronti di un mutamento che metterebbe a rischio l'inveterata purezza delle fonti ispiratrici. È così che va intesa l'ultima lettera del reverendo padre Louis de Mornay, parroco di Fontanaradina, Corigliano e Aulpi di Sessa Aurunca. Il reverendo padre de Mornay si lamenta del fatto che quel rito della Santa Messa, così rigorosamente codificato da San Gregorio Magno, forse nel 604, sia andato degradandosi nella deboscia generale dei tempi. A suo avviso il rito oggi officiato, in buona parte del mondo ai noi non più in latino, nega la presenza reale del Cristo, nega il sacrificio propiziatorio, nonché il sacerdozio ministeriale. La nuova messa ha deragliato dal binario cattolico, dice lui, e lui non ne può più di una messa che somiglia ad uno spettacolo di varietà, di nacchere, chitarre, battimani, urla e canzonette sentimentali, non ne può più di concelebrazioni con laici, uomini, donne, spose, eccetera, chissà cosa sia l'eccetera, non ne può più di bizzarre esposizioni di generi alimentari come processioni di offerte. Garantisce di averci trovato perfino bottiglie di cognac e banane. Non riesce a trattenersi dal denunciare il fatto che l'8 maggio del 1984, data storica, ahimè, la lettura dei sacri testi sia stata affidata ad una donna a torso nudo. E già che c'è, non può esimersi dal raccontare quel che è accaduto in Papua Nuova Guinea. Assecondando il dettato del Concilio Vaticano II, si mise al lavoro una commissione episcopale che, in nome di un malinteso relativismo, avrebbe dovuto riadattare il rito cattolico alle diverse e più remote culture, riscrivendo alla faccia di Gregorio Magno, che sul relativismo doveva avere idee chiarissime, riscrivendo anche il testo della Santa Messa e fidando nell'aiuto di quello Spirito Santo che, come dice Vittorio Messori ieri sul Corriere della Sera, suggerisce le parole appropriate ai pastori. Orbene, la competenza agrofaunistica, diciamo, del reverendo padre de Mornay gli consente di sapere come in Papua Nuova Guinea sia il maiale l'animale più noto e come la pecora in quelle terre infelici non abbia ancora preso a belare. Ma il suo fervore religioso non gli consente certamente di approvare la scelta della commissione episcopale, presumibilmente sorda ai consigli dello Spirito Santo, di utilizzare questo sapere per conferire una maggior forza, diciamo suggestiva, al rito della Santa Messa. In modo analogo, d'altronde, a come, dico per fare un esempio, il traduttore italiano del 2000 delle canzoni di Boris Vian ha tradotto Gary Cooper e Alan Ladd, l'ha tradotti rispettivamente con Harrison Ford e Sean Connery. Una scelta che indigna il reverendo padre de Mornay e contro cui stanno più di 2000 anni di proiezioni antropomorfiche bioetiche. Si è configurato come problema, in parole povere, il momento dell'Ecce Agnus Dei, e la commissione episcopale ha preferito sostituire il nome di un animale ignoto ai papuasici con il nome dell'animale a loro più familiare.